Venerdì 9 novembre, al Cinema Mexico di Milano, la Terratrema presenta Simone Massi, animatore resistente. Una serata di proiezioni tra animazione e documentario. Festeggeremo insieme all'autore l'imminente edizione 2012, gustando i vini di tre grandi produttori marchigiani. Venerdì 9 novembre, ore 21, Cinema Mexico. La Terratrema.org.